Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Malora è per la sindaca di Roma, Raggi, questa mattina in ospedale per accertamenti in forza della partecipazione all'incontro per lo stadio della Roma che era previsto per questo pomeriggio. Timbravano fino a 20 cartellini, andavano a giocare a tennis o a fare altri lavori come lo chef in un ristorante, 55 arresti, 94 indagati in un ospedale napoletano, anche sindacalisti. Vincent Bolloré è indagato per aggiottaggio dalla Procura di Milano in relazione alla scalata media 7 forte calo del titolo Vivendi in borsa. In Siria, attentato ad Aleppo Est, almeno 45 morti, mentre sono in corso i colloqui di pace a Ginevra, e in Iraq prosegue l'avanzata su Mosul. La Ferrari celebra i 70 anni nel nome della prossima vettura per la Formula 1. Ci sarà il tricolore sull'alettone, primi giri a Fiorano con Raikkonen. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, mandateceli, poi più avanti ne leggeremo qualcuno. Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque siamo alle vicende di Roma, era previsto per oggi l'incontro sullo stadio, ma Virginia Raggi si è sentita male. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. Partiamo, Simone, proprio dal malore della Raggi che ha costretto la sindaca ad annullare gli appuntamenti della mattina per sottoporsi quindi a degli accertamenti al San Filippo Neri. È fortemente in dubbio la sua partecipazione all'incontro sullo stadio che si dovrebbe tenere in Campidoglio nel pomeriggio. La presenza della Raggi potrebbe non essere comunque determinante. Anche nelle altre riunioni con la parte proponente la prima cittadina non è stata presente, ma rappresentata dal vice sindaco Bergamo, dal presidente d'aula Di Vito e dal capogruppo 5 Stelle Ferrara. Per la Associazione Sportiva Roma saranno presenti il direttore generale Baldissoni e il costruttore Luca Parnasi. Si cerca ancora una mediazione, un compromesso che possa evitare quelle carte bollate, minacciate di fatto da chi vuole costruire lo stadio, minacce però che secondo l'avvocatura del comune sarebbero spuntate. Un eventuale ripensamento sulla delibera Marino, secondo i legali del Campidoglio, non porterebbe ad alcun risarcimento miliardario. Tutto allora è nelle mani della Giunta 5 Stelle, con anime diverse al suo interno. Tra gli oltranzisti, che forti dell'appoggio della base puntano a bocciare il progetto, e chi, conscio delle ricadute di popolarità, lavora per un progetto stadio rivisto al ribasso. Sembra che il tema stadio sia l'unica cosa importante per la città, commenta infastidita la senatrice Taverna. Siamo comunque agli sgoccioli, spiega, credo che Virginia e la Giunta si esprimeranno, se non oggi, a brevissimo. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Veniamo alla vicenda di assenteismo in ospedale a Napoli. Questa volta sono 94 gli indagati, 55 gli arresti domiciliari disposti. I NAS di Napoli, attraverso telecamere installate in uno dei principali ospedali della città, il Loreto Mare, hanno individuato tra l'altro operatori che marcavano presenza per 20, un medico che risultava in servizio ma in tassi se ne andava a giocare a tennis e a fare servizi personali. Un dipendente che avrebbe dovuto vigilare sulle assenze faceva invece lo chef in un albergo in orario di servizio in ospedale. L'indagine è durata 2 anni. Dopo ore di filmati e intercettazioni, oltre 500 servizi di osservazione e pedinamento, gli indagati dovranno rispondere di truffa ai danni di ente pubblico e falsa attestazione di presenza. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E mentre dai primi dettagli di questa inchiesta emerge che ci sarebbero anche dei sindacalisti tra questi truffatori del cartellino, c'è un'altra notizia che arriva da Gorizia e che riguarda anche in questo caso due medici. Per non destare sospetti, leggiamo dall'ANSA, si allontanavano dal posto di lavoro da un'uscita di sicurezza a bordo delle proprie auto, parcheggiate a pochi metri, andavano in banca, al ristorante, a fare shopping, nello studio privato e rientravano sempre dalla porta di emergenza. Due medici dell'ospedale di Gorizia che sono stati sospesi per un anno dal GIP del capoluogo al termine di indagini del comando provinciale della Guardia di Finanza. Vincent Bolloré è indagato per aggiottaggio. Aggiottaggio è questo reato per il quale Vincent Bolloré, primo azionista del colosso multimediale francese Vivendi, è finito nel registro degli indagati della Procura di Milano. L'indagine è partita dopo un esposto della Fininvest alla Consob, alla Gcom, alla Procura, dove si ipotizzava che Vivendi avesse creato condizioni per far scendere artificiosamente il valore del titolo Made Asset per poi scalare a prezzi di sconto. Per il patron di Vivendi non è il primo impatto con la giustizia italiana. Nel 2014 la Procura di Milano ricevette dalla Consob una relazione che, pur non producendo conseguenze penali, produsse però effetti sul piano amministrativo. Una sanzione Consob, confermata in appello a 3 milioni di euro, e la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità con interdizione per 18 mesi dal Consiglio di Amministrazione di società italiane quotate in borsa. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre vi facciamo ascoltare il servizio del nostro Dario Ceccarelli, le agenzie battevano la notizia che nell'inchiesta della Procura di Milano, con al centro appunto l'accusa di aggiotaggio, oltre a Vincent Bolloré è indagato anche l'amministratore delegato della società Arnaud de Puyfontaine. Le iscrizioni, lo ricordiamo ancora, derivano dall'esposto di Mediaset contro il gruppo francese. A chi ci chiede invece via SMS, anzi via WhatsApp, a quale sigla appartengano i sindacalisti assenteisti, a quanto pare, da quello che risulta al momento, ovviamente attendiamo dettagli, sarebbero sindacalisti di CGIL, CISL e UIL, e che sarebbero stati coinvolti direttamente nella gestione di questi badge timbrati molteplici volte. Siamo alle vicende del Partito Democratico, a questa è dedicata l'analisi di oggi di Daniele Biacchessi. La sorte del governo guidato da Paolo Gentiloni è appesa al filo dello scontro in atto nel Partito Democratico. Oggi la direzione approva i tempi e le regole del congresso, poi ci saranno le primarie, che Renzi vorrebbe il 9 aprile, che Franceschini e Orlando vorrebbero il 7 maggio, che Cuperlo ed Emiliano penserebbero invece a luglio. Si va verso la sfida 4, ma al di là del mero tatticismo interno al partito di maggioranza relativa, resta l'incognita del voto anticipato, che secondo Renzi dovrebbe essere l'11 giugno. Sono molti gli ostacoli. Ad aprile l'esecutivo deve varare comunque una manovra correttiva. Il Quirinale non gradisce il voto anticipato, semmai dai partiti e dal Parlamento attende una correzione della legge elettorale. Poi i tempi sono stretti per le eventuali dimissioni di Paolo Gentiloni, che invece intende restare, per la firma di Sergio Mattarella di un decreto di scioglimento delle Camere. E allora il cammino del Partito Democratico e del governo marcia dunque parallelo e resta sempre più in salita, in attesa di una svolta politica che tarda a venire. Così dunque Daniele Biacchessi. Noi passiamo all'estero. Di 45 morti, oltre 70 feriti, il bilancio provvisorio di un attentato avvenuto questa mattina ad est di Aleppo, nel nord della Siria, in un'area conquistata all'ISIS dalle forze locali filo-turche, mentre a Ginevra proseguono le trattative. Attentati tra la folla per contrastare l'avanzata contro le posizioni dell'ISIS. La tecnica impiegata in Siria come in Iraq segna la linea di difesa dello Stato Islamico, attaccato su più fronti, che ieri ha perso il controllo della cittadina di El Bab, 50 chilometri a nord-est di Aleppo, crocevia strategico tra Turchia ed Iraq, ma anche asse viaria sulla via di Raqqa, capitale dello Stato Islamico. Sul fronte diplomatico, per la prima volta dopo la caduta di Aleppo Est a dicembre, l'ONU torna a mediare colloqui indiretti a Ginevra tra opposizioni e governo di Damasco. Con l'appoggio della Russia questa volta, si tratta sulla base della risoluzione 2254 del dicembre 2015, ben più favorevole al governo siriano, alla Russia e all'Iran, perché non prevede, come invece affermava la precedente del 2012, la creazione di un'entità di governo transitorio, bensì parla della formazione di un governo comprensivo e non confessionale, in base alla quale il presidente Bashar al-Assad potrebbe rimanere al potere almeno fino al 2021. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E le forze speciali irachene hanno fatto il loro ingresso nei primi distretti occidentali di Mosul in Iraq, lo riferiscono i media locali citando i comandi militari nel distretto di Al-Tayyaran. I militari hanno preso il controllo di un impianto sportivo, i combattimenti sono violenti, l'ISIS ha utilizzato almeno 7 autobomba. E forti tensioni ci sono anche in Libia. Era il 2 di febbraio quando, con toni altisonanti, il governo italiano annunciò di aver stretto un patto con la Libia per il controllo dei flussi migratori che dal paese del Nord Africa si muovono verso l'Italia. Sono passati poco più di 20 giorni e i risultati scarseggiano. Ieri, per dire, sono state soccorse 1.700 persone, un numero record per la stagione. I migranti raggiunti ieri in 15 diverse operazioni nel Mediterraneo centrale erano tutti partiti dalle coste libiche a bordo di gommoni e piccole imbarcazioni fatiscenti. È pur vero che per avere degli effetti questi accordi hanno bisogno di tempo, ma di sicuro sul breve termine tutto è come prima. D'altra parte, l'accordo con Tripoli è subito parso debole, perché debole è il premier Sarraj, il leader appoggiato dalla comunità internazionale e dall'ONU con il quale abbiamo stretto l'intesa, ma che non è riconosciuto in patria. Lo testimoniano i violenti scontri che sono scoppiati nella notte a Tripoli tra le milizie alleate del governo sostenuto dalle Nazioni Unite e altri gruppi armati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E notizie di questa mattina che arrivano invece dall'Egitto. Un altro cristiano egiziano, il sesto nell'arco di un mese, è stato ucciso da presunti jihadisti dell'ISIS nel Sinai nord orientale, lo hanno riferito fonti della sicurezza. Da quel che si apprende sempre da fonti locali, circa 200 famiglie di cristiani hanno lasciato la zona al Arish nelle ultime due settimane, proprio in seguito alle uccisioni di copti. Ci spostiamo a parlare della vicenda del fratellastro del dittatore coreano. Ci sono ancora aggiornamenti su un omicidio che resta misterioso. A uccidere Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, sarebbe stato il gas nervino, una sostanza altamente neurotossica. Sono queste le conclusioni preliminari dell'autopsia disposta dalle autorità malesi. E si rafforza così l'ipotesi d'indagine secondo la quale la matrice dell'assassinio non è di criminalità comune, ma conseguenza di una trama internazionale le cui fila sarebbero state tirate a Pyongyang. Il primogenito di Kim Jong-il, lo ricordiamo, è morto poco dopo essere stato avvicinato da due donne che gli spruzzarono del liquido sul viso mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo per Macao il 13 febbraio scorso all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. Ora sembra che una delle due donne abbia mostrato sintomi di malessere, forse proprio per il contatto con l'agente nervino VX. Il gas, brevettato in Gran Bretagna e Stati Uniti negli anni 50, è stato classificato come arma di distruzione di massa dalle Nazioni Unite. Si tratta di una sfacciata violazione della Convenzione internazionale contro le armi chimiche da parte della Corea del Nord. Siamo scioccati, ha affermato attraverso un comunicato il Ministero degli Esteri di Seul. E la Malesia, dal canto suo, minaccia di espellere Kang Chol, l'ambasciatore nordcoreano a Kuala Lumpur, se quest'ultimo continuerà a diffondere bugie sull'inchiesta. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'Italia adesso, a 6 mesi dal terremoto, dalla prima forte scossa, quella che ha raso al suolo Amatrice. Fra poco il premier Gentiloni sarà in visita a San Pellegrino di Norcia ed è anche l'occasione per fare un punto. Politici in passerella nelle zone del sisma, oggi come allora, subito dopo la scossa del 24 agosto, ma anche dopo quelle altrettanto devastanti di fine ottobre. Gentiloni visiterà le nuove casette di San Pellegrino di Norcia prima di partecipare alla Sagra del Tartufo. Ogni consegna di casette ha il suo nastro, il suo politico, la sua festa. Anche se su 3.000 costruzioni che servono in 60 comuni, ne sono state consegnate appena 18 in Umbria, 25 nel Lazio ad Amatrice, con l'umiliante assegnazione tramite lotteria. E se n'è accorto anche il commissario straordinario di governo per la ricostruzione Vasco Errani, che il fallimento è evidente. Questa non è ricostruzione. Non è ricostruzione. Questa è la gestione dell'emergenza. Così Errani nei giorni scorsi davanti ai sindaci, poi il chiarimento e presunti ritardi su casette, stalle e macerie, dice è materia di protezione civile, io non ce l'ho con nessuno, il tema è la vastità del territorio interessato. Insomma, come al solito, non è colpa di nessuno. Anzi, la colpa è del territorio che è troppo vasto, dice Errani. Ma i sindaci della zona hanno le idee molto più chiare sulle responsabilità. Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, in provincia di Macerata, oggi a 24 mattino. Delle 225 casette richieste non se ne è vista ancora una. Quando parti male non puoi che continuare peggio, dice Pazzaglini. Gli enti pubblici, quindi nel caso specifico i comuni, ricostruiscono il pubblico, la regione controlla e la struttura di vertice, che sia commissario o che sia capo di dipartimento di protezione civile, però per cortesia datemene uno, perché altrimenti... altrimenti non so con chi devo parlare, controllassero quello che stiamo facendo. E invece no, si sta invertendo tutto. E così la ricostruzione non parte, la primavera è alle porte e gli sfollati sulla costa riceveranno presto il ben servito dagli hotel, molti dei quali stanno pagando di tasca propria l'assistenza senza ricevere alcun rimborso, e l'economia è in ginocchio. Senza casette nei paesi svuotati dal sisma, le vendite sono crollate del 90%, dice oggi Coldiretti. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi dico già da adesso che a partire dalla settimana prossima, proprio in effetto giorno, ci occuperemo spesso delle vicende del terremoto, la vicenda appunto degli alberghi e degli albergatori, la vicenda, la questione degli esercizi commerciali che sono ormai vuoti e svuotati, con un giro d'affari, come avete sentito, calato nettissimamente, e naturalmente le persone che sono ancora senza casa. Intanto cambiamo argomento e andiamo alla presentazione della nuova Ferrari da Formula 1. Enrico Pagliarini, ciao, buongiorno. Buongiorno. Dunque, la nuova Ferrari si chiama SF, che sta per Scuderia Ferrari, 70H. I 70 sono gli anni che il cavallino festeggia, perché la prima auto è uscita dai cancelli di Maranello nel 1947, e H sta per Hybrid, perché sappiamo che da qualche anno i motori della Formula 1 sono turbo, quindi c'è la parte meccanica tradizionale, ma c'è anche la parte elettrica, quindi sono motori ibridi, così come molte macchine che vediamo per strada oggi. Dunque, forse la novità più evidente è questa aerodinamica che trasforma un po' le monoposto, perché diciamo che da quest'anno il regolamento lascia maggiore libertà ai progettisti, soprattutto sul fronte aerodinamico, con aerodinamica più complessa, con alettoni dalle forme più complicate, difficilissime da descrivere. L'unica cosa che possiamo descrivere alla radio facilmente è una pinna, non si vedeva da anni una pinna così sul monoposto di Formula 1, proprio sul cofano motore. Una pinna è forse l'unico posto dove prende un po' il bianco, perché la macchina è molto rossa, c'è un tricolore, un po' di strisce tricolori, e sopra la pinna c'è, giusto per ribadire che l'aerodinamica è molto complicata, c'è anche un'aletta, quindi alettone davanti, alettone posteriore, molto con forme tutte complicate. Sì. E a proposito di aerodinamica, ma questo sì, naturalmente riguarda, lo diciamo, qua in radio ci vorrebbe un'oretta per descrivere tutto, beh, certo, tanto sì, c'è internet, ve l'andate a vedere. Questo e non sì, c'è dico problema. L'ultima cosa dal punto di vista aerodinamico che non riguarda i progettisti: le gomme saranno più larghe, perché per insomma, vari motivi appunto che sono dovuti al regolamento nuovo. Sul motore non ci sono tantissime novità, ovviamente Maranello, così come tutti gli altri team, dicono questo motore sarà più performante. Adesso l'auto sta già girando sulla pista di Fiorano di fronte alla fabbrica di Maranello, però vedremo tutto dal 26 marzo, quando si scende in pista, si parte dall'Australia. Grazie dunque. Grazie al nostro Enrico Pagliarini, ciao, buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo tra un attimo per il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Follonica, la vicenda ormai la conoscete sostanzialmente, se ne è parlato anche parecchio ieri alla Zanzara, la vicenda dei due dipendenti della Lidl che trovate due rom, due nomadi che scavavano in mezzo ai rifiuti, cercavano qualcosa in mezzo ai rifiuti, hanno deciso di rinchiuderle dentro un gabbiotto, fare delle riprese, metterle su Facebook mentre queste donne urlavano e loro ridevano. Ne parliamo col sindaco di Follonica tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati ancora dello stadio della Roma e del malore per Virginia Raggi, probabilmente non le consentirà di partecipare all'incontro previsto per questo pomeriggio, di Vincent Bolloré, indagato per aggiotaggio dalla procura di Milano. Siamo andati in Siria, in Libia, in Egitto, ci siamo occupati della Ferrari e naturalmente della vicenda di assenteismo scoperta nell'ospedale Loreto a Mare di Napoli. Timbravano fino a 20 cartellini, andavano a giocare a tennis o a fare altri lavori. 55 arresti, 94 indagati, molti medici sospesi. Qualche ascoltatore tra l'altro ci chiede: ma perché solamente sospesi e non licenziati? Guardate, è stato approvato la settimana scorsa l'attuativo della riforma Madia, che prevede che entro 48 ore ci sia la sospensione ed entro il mese il licenziamento, quindi ci vuole anche un attimo di tempo, banalmente per non fare processi sommari alle persone. Insomma, assenteisti ce ne sono, altri magari sono stati, si pensa che siano assenteisti, si scoprirà che non sono colpevoli. Il nostro giro per l'Italia inizia dalla provincia di Grosseto, da Follonica, dove ci sono delle immagini e un audio che ha colpito molte persone e riguarda quello che è avvenuto in un supermercato della Lidl, dove sostanzialmente due nomadi sono state scoperte mentre frugavano in una zona nella quale non dovevano essere, ma frugavano sostanzialmente in mezzo ai rifiuti. Due dipendenti l'hanno rinchiuse dentro una specie di gabbiotto e il risultato è stato questo. Le vedi? Non si può entrare nell'angolo rotture. Non si può entrare nell'angolo rotture della Lidl. Ed è questo, lo sentite? Loro che ridono mentre le due donne sono rinchiuse dentro sostanzialmente questa gabbia. Video ultra condiviso in rete, pieno di commenti francamente pessimi, alcuni stanno arrivando anche qua via WhatsApp e non li riferisco nemmeno. Andrea Benini, sindaco di Follonica, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, salve. Che cosa pensa di questo? Ma io ho visto durante il consiglio comunale ieri pomeriggio, sono rimasto sgomento, è una cosa allucinante, grave, grave per il gesto in sé e soprattutto poi grave e inquietante per la leggerezza, l'indifferenza con cui viene ripreso. La banalità del male, diceva Hannah Arendt, credo che effettivamente ci sia da lavorare molto, evidentemente in profondità, anche su un po' su una ricostruzione di una cultura vera, no? Davvero della cura, della solidarietà, dell'accoglienza, perché a volte diventano parole vuote, perse un po' nella retorica. Dobbiamo evidentemente rilavorarci molto, no? Per costruire davvero e far sì che diventino quotidiano, no? Realtà concreta. Qua qualcuno dice bisogna avere rispetto per la proprietà privata, ma guardi che non è questo il punto. Questo tecnicamente è un sequestro di persona, cioè se tu chiudi una persona da qualche parte, come dire, di qualunque etnia sia, è un sequestro di persona, lo è tecnicamente, no? Eh beh, assolutamente. Anche a me le cose che mi hanno poi ancora più sconvolto sono i commenti, no? Cioè al di là appunto della leggerezza con cui loro si sono autoripresi e quindi autodenunciati per sequestro di persona, ma poi le migliaia di commenti che sostanzialmente appunto avallavano questo tipo di atteggiamenti, considerandoli come così normali, ordinari. E credo un problema sia anche questo, forse anche i social, in qualche modo il meccanismo perverso ma dei social ha aiutato a abbassare un po' l'asticella. Sì, questo può darsi, devo dire che sono abbastanza perplesso su questo ragionamento, cioè c'è qualcosa nella pancia evidentemente che viene tirato fuori, perché la domanda da fare sarebbe sostanzialmente se queste due persone fossero state italiane, no? Come avreste reagito di fronte ad una scena di questo genere se fossero state italiane? Probabilmente non nello stesso modo, evidentemente. Le dirò di più, secondo me se ci fossero stati rinchiusi due animali, credo che anche la reazione sarebbe stata ancora diversa. Credo anche questo addirittura, non soltanto, ma credo che a volte anche in questo animalismo... Lei dice Benini, ci mettono dentro due gattini e se questi due gattini si disperano probabilmente i due gattini avrebbero avuto solidarietà. Beh, ci può stare come ragionamento. Più pietà, sì, credo che sì, i rom sono gli ultimi degli ultimi e qualsiasi cosa avessero fatto, anche rufolare nella spazzatura, e quindi mi sembra un gesto disperato, chiaramente non, niente ovviamente può giustificare quel tipo di reazione, quel tipo di azione. Certo che poi come dicevo però in questo un po' dicevo abbassamento dell'asticella rispetto alla normalizzazione di un linguaggio di parole violente, poi in un clima di questo tipo magari possono nascere azioni, gesti poi concreti come quelli forse si sono visti ieri. La ringrazio, grazie Andrea Benini, sindaco di Follonica, e voglio dire francamente agli ascoltatori che ci stanno scrivendo, dice sequestro di persona ma cambia lavoro per cortesia, guardate che è tecnicamente un sequestro di persona, non è che sto dicendo una follia, cioè se tu rinchiudi una persona da qualche parte contro la sua volontà è un sequestro di persona, punto, non ci sono storie, cioè è tecnicamente un sequestro di persona, non è che lo dico io, lo dice il giornalista di Radio 24. Va bene, Paola Fucilieri, giornalista del Giornale. Ciao Paola, buongiorno. Ciao. Benvenuta. Eccoci. Grazie. Qua. Allora, qua voi avete riportato alla luce una vicenda sulla quale ci eravamo concentrati tutti quanti, no? La vicenda della molestia ricevuta da una ragazza di 15 anni su un treno regionale lombardo. Ce ne eravamo occupati anche noi, avevamo parlato con un sindacalista per capire qual era la situazione della sicurezza sui treni lombardi. E da quel che abbiamo capito, insomma, il sospetto forte della procura, poi per carità le indagini andranno concluse, ne scrivi oggi sul quotidiano, appunto sul Giornale, è che la ragazza un po' di cose se le sia inventate. Sì, la procura dei minori e la squadra mobile hanno lavorato sempre in maniera assolutamente, come dire, senza mai pensare che lei potesse, seguendo tutte quelle che erano state le sue indicazioni. Il problema è che non c'è alcun riscontro a tutte le indicazioni che ha dato. Addirittura, scusami Paola, da quel che ho capito, addirittura la persona che lei aveva indicato come possibile, no? Persona un magrebino con il quale aveva avuto un contatto su Facebook, si è presentato in questura lui, no? Sì, si è presentato in un commissariato, poi l'hanno portato alla mobile e non è mai stato un fermo di PG, di polizia giudiziaria, perché evidentemente lui si è presentato tra l'altro con un avvocato e ha spiegato che la ragazza l'aveva conosciuta su Facebook, che l'aveva anche vista fuori, cosa che lei non aveva detto, che però lui non l'ha picchiata, non le ha fatto niente, tant'è che evidentemente ha un alibi di ferro, perché non si presenta un magrebino clandestino alla polizia con un avvocato. Ah, no? Beh, certo. Piuttosto sparisce da qualche altra parte, evidentemente. Esattamente. E quindi insomma la cosa sembra che adesso sia montata. Che tempi si stanno dando in questo momento nella procura dei minori per capire quando chiudere? Guarda, la cosa non lo so, perché la procura dei minori, proprio perché la procura dei minori e anche la squadra mobile, la sezione che si occupa di violenze sessuali e violenze sui minori e sulle fasce deboli, sta molto abbottonata, proprio perché si tratta di una minorenne, ha compiuto 15 anni a novembre, ecco. Però sono in un vortice, perché ci sono troppe cose che non, cioè mezze bugie, mezze verità, hanno sentito le amiche, è difficile dirlo, però credo che a breve verrà fuori qualcosa, credo, ne sono convinta, cioè alla fine il problema è che questa ragazza, l'unico riscontro oggettivo è che ha una costola rotta, ha una costola fratturata, perdon, e ha dei lividi. Sì. In qualche modo su questo non abbiamo ancora delle spiegazioni. Io ti ringrazio, no. grazie a Paola, che lo può citare lei, sai. Certamente. Grazie a Paola Fucilieri, giornalista del Giornale, per essere stata con noi, cronista del Giornale. E voglio chiarire a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo ancora sulla vicenda delle due donne rom chiuse là dentro. Guardate che qua sappiamo benissimo che ci sono dei problemi di convivenza e non abbiamo mai smesso di sottolinearli quando questi problemi di convivenza si sono manifestati in maniera pessima, diciamo così. L'altro giorno abbiamo raccontato delle due donne rom che sono agli arresti domiciliari in mezzo ad una strada nella zona Corvetto di Milano e la polizia municipale non riesce a rimuoverli. Abbiamo raccontato di quando a volte succede, lo fanno i rom ma lo fanno anche gli italiani, chiariamolo, occupano delle case abusivamente e i legittimi assegnatari non ci riescono ad entrare. Guardate, qua non abbiamo nessun pregiudizio, diciamo che questo, la scena in sé con queste donne che urlano e questi che ridono, è una scena che ha del razzismo, poi mettetela come volete. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa e poi andiamo in Campania per due vicende, a partire da quella di Stefano Graziano. Lo ricorderete, è l'ex presidente del Partito Democratico in Campania. Abbiamo fatto dei titoloni pazzeschi su di lui alla vigilia delle amministrative, abbiamo detto che era collegato con la camorra. Ebbene, tutte le accuse sono cadute nel giro di appena 8 mesi. A tra poco. Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: malore per la sindaca di Roma, Raggi questa mattina in ospedale per accertamenti, in forse la partecipazione all'incontro per lo stadio. Timbravano fino a 20 cartellini e andavano a giocare a tennis o a fare altri lavori. 55 arresti e 94 indagati in un ospedale napoletano, anche sindacalisti. Vincent Bolloré indagato per aggiotaggio dalla procura di Milano in relazione alla scalata Mediaset, forte calo del titolo Vivendi in borsa questa mattina. In Siria, attentato ad Aleppo Est, almeno 45 morti, mentre sono in corso i colloqui di pace a Ginevra. E in Iraq prosegue l'avanzata su Mosul. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo con la seconda e ultima parte della trasmissione, prima di arrivare al nostro Mario Platero, America 24, e prima al traffico. Siamo in attesa di parlare con due persone: Salvatore Stefano Graziano, ex presidente del Partito Democratico in Campania, definitivamente assolto dopo che anche noi giornalisti abbiamo picchiato su di lui in maniera probabilmente un po' troppo energica, e un imam, l'imam della moschea di San Marcellino nel casertano, Nasser Iduri, che ha lanciato un appello dopo che nei giorni scorsi i problemi sono stati tanti. Innanzitutto è stato dato fuoco alla macelleria islamica di Via Roma, ieri una bomba carta contro la moschea, e una settimana fa, non si sa se l'episodio sia collegato oppure no, un egiziano è stato ucciso e dato alle fiamme in una baracca. Non sappiamo se tutto questo sia collegato, ma soprattutto abbiamo questa simpatica usanza da parte di una serie di persone, e in questo caso l'ex presidente del PD e l'imam, che danno degli appuntamenti telefonici, si dicono disponibili, dopodiché non rispondono più al telefono. Non è il primo caso che ci capita, e però ogni tanto succede. Vabbè, prendiamoci un attimo di tempo allora anche per rispondere a qualche ascoltatore sempre sul tema della vicenda delle due donne rom che sono state rinchiuse appunto dentro la gabbia dai dipendenti della Lidl. Voglio chiarire anche con chi ci scrive in questi minuti a proposito di questo, sostenendo varie cose, insomma, no? Qualcuno molto brutalmente dice sono già rinchiuse, così si possono spedire a casa loro. Qualcun altro dice se viene un estraneo in casa mia senza chiedere lo chiudo in cantina e chiamo la polizia. Ma guardate, non stiamo dicendo che le due donne non stessero facendo niente di illegale, è perfettamente, come dire, perfettamente chiaro che stessero facendo qualcosa di illegale. Si trovavano in un posto nel quale non dovevano essere, stavano frugando in luoghi nei quali non dovevano frugare. Certamente però non è quella la soluzione, perché sennò arriviamo a una giustizia fai da te che francamente ha poco senso, almeno a mio personalissimo giudizio. Poi la potete pensare evidentemente come volete. Ripeto, l'idea è che se fosse stato qualcun altro, se fossero stati italiani o persino un paio di animali, un paio di gattini, come diceva il sindaco di Follonica, probabilmente la reazione anche vostra sarebbe stata decisamente diversa. Comunque facciamo così, andiamo a vedere se riusciamo ad avere Stefano Graziano, ex presidente del Partito Democratico. Ci siamo? Ex presidente del Partito Democratico in Campania, eccoci qua. Oh, lei ci ha risposto. Senta, allora io voglio leggere agli ascoltatori qualche titolo di giornale del 27 di aprile del 2016. Libero, gli affari del PD con Gomorra. Il giornale, il consulente di Renzi indagato per Camorra. Il messaggero, appalti alla Camorra, indagato il presidente del PD Campano. E qua siamo in apertura di Repubblica, il presidente del PD in Campania indagato per Camorra e voti. Apertura del Corriere della Sera, voti e Camorra, bufera sul PD. A questo siamo, Graziano, questo appena 8-9 mesi fa, e adesso lei di fatto è uscito pulito da tutto, nel senso che la DDA ha archiviato l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, o meglio ha fatto cadere l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, il che vuol dire che la stessa direzione distrettuale antimafia ha ritenuto che non ci fosse alcun elemento, e dall'altra parte appunto c'è stata ieri l'archiviazione per l'altra parte, un'ipotesi di corruzione, tra l'altro su un fatto molto particolare. Come si sente, Graziano? Ma oggi molto risollevato. Il problema è che sono stati gli ultimi 10 mesi che ho vissuto un incubo, e per usare una frase che, come dire, comprende tutto, avendo visto un film dove io ero il protagonista a mia insaputa, diciamo, come dire. Il mitico a mia insaputa che ritorna. Ha detto tra l'altro che ci vuole scrivere un libro su questa cosa. Sì, sto lavorando, ho preso un po' di appunti, sto scrivendo questo libro perché penso che la storia vada raccontata, perché il tema vero di riflessione deve essere, come dire, l'informazione anche, cioè i media, come lei ha giustamente preso le prime pagine di quei giornali che oggi non ci sono altrettanto, diciamo, non è che hanno rimesso altrettanto, diciamo, la prima pagina per dire questa cosa, e questo è un problema molto serio, perché da questo punto di vista io penso che bisogna fare una riflessione molto vera su quello che è il ruolo di media, e in particolare io penso che dovremmo, come dire, portarci al sistema inglese, dove l'avviso di garanzia non viene pubblicato, viene pubblicato chi ottiene rinvio a giudizio, perché questo è il tema. È l'altro tema su cui, a mio avviso, il legislatore dovrebbe mettere sì, in moto. Però Graziano, dall'altra parte, in quel caso si pone un problema per i partiti, no? Che a volte rischiano di non sapere chi si mettono in casa, nel senso che tu ti prendi una persona, magari è indagata, no? No? Cioè sì, c'era quella famosa frase di Borsellino che diceva, no, se un politico è solamente in odore di mafia non deve essere candidato, no? Ed è una riflessione che ci sta, cioè c'è una scuola di pensiero che pensa questo, Sì, lo capisco perfettamente, però non è che si può distruggere la vita delle persone se c'è un sistema che prevede che l'avviso di garanzia è un avviso di garanzia per l'indagato, non è una condanna, perché altrimenti diventa come dire, un elemento di battaglia politica. E io penso che invece l'elemento di battaglia politica non deve essere fatto su questo. Per me c'è il principio di innocenza fino al terzo grado, cioè dopodiché è evidente che se uno ottiene una condanna già in primo grado, beh, già è diverso da quello che, se uno ottiene un rinvio a giudizio, già è diverso da quello che ottiene l'avviso di garanzia, altrimenti eliminiamo l'avviso di garanzia, andiamo direttamente al giudizio e abbiamo risolto il problema, cioè stabiliamo se il sistema, diciamo, funziona in un modo oppure in un altro. Il tema non è la trasparenza c'è, ci deve essere, ci mancherebbe, però attenzione a non gettare il fango. Allora o stabiliamo e lasciamo il principio, l'avviso di garanzia com'è, però i media debbono riflettere quando ottengono, diciamo, queste... Soprattutto perché io ho subito un'aggressione politica immediata. Qualche ascoltatore Graziano ci dice Berlusconi su questo avrebbe da scrivere un'enciclopedia. No, è ben diversa la vicenda. La vicenda non è uguale, attenzione. Non... No, è chiaro che non è chiaro che non è uguale, però insomma, ecco, sul tema del garantismo Berlusconi ha fatto delle battaglie molto forti, no? È interessante che questa cosa venga scoperta anche adesso dal Partito Democratico. No, però diciamo che la svolta garantista e riformista del PD c'è già stata, e questo l'ha dato atto a Renzi, che su questo ha fatto comunque una battaglia, no? Da questo punto di vista. E penso che debba sempre di più accentuarsi questo profilo garantista e riformista. Attenzione, il garantismo non è innocentismo. Sì, è semplicemente aspettare che a difesa degli innocenti. Sì, che per una persona arrivi la condanna. E poi, guardi, io su questo ci tenevo a sottolinearlo, perché è una mia fissa qua. Cioè, come diceva lei giustamente, il ruolo dei media. Cioè, tra l'altro eravamo alla vigilia delle amministrative, quindi era un momento particolare, quanto abbiamo dato peso a questa notizia e quanto ne abbiamo trattato anche nei giorni successivi, a fronte poi di un risultato che gli stessi magistrati, cioè la stessa magistratura inquirente, ha stabilito che non c'erano, no? Che non c'era sostanza in 10 secondi. No, il tema vero è esattamente questo, cioè il tema è la battaglia politica di una vicenda giudiziaria, quindi noi dobbiamo stare attenti, cioè se vogliamo mantenere il sistema con l'avviso di garanzia che abbiamo pubblicato anche oggi, beh, i media però devono essere più attenti nel leggere le carte, perché chiunque si leggeva le carte, beh, capiva che praticamente non ci poteva essere nulla di nulla, perché è evidente, anzi il GIP scrive oggi, a mio avviso, una cosa molto importante. Sì, in 5 secondi se riesce Graziano. Che stabilito che Graziano non c'entra niente con la Camorra e con la corruzione, ha fatto quello che un politico dovrebbe fare ogni giorno, cioè tentare di difendere gli interessi di una comunità per riprogrammare un finanziamento per dare forza ad una comunità. Ed era da là che nasceva l'accusa di corruzione. La ringrazio, grazie Stefano Graziano, ex presidente del PD in Campania. Il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.